tutto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. New York, sono 8 le vittime dell'attacco con un furgone. Il Papa e i terroristi abusano del nome di Dio. Catalogna, Puigdemont non si presenterà ai giudici, resta a Bruxelles. Lotteremo contro l'estradizione, dice l'avvocato. Manovra e scontro nella maggioranza, nella legge di bilancio, primo passo per la rottamazione dei televisori. Tracce di metanolo nel sangue della bambina morta al bambin Gesù, si indaga sulle cause. Una tassa sul panorama, a Positano si vogliono regolamentare le foto pubblicitarie con la città sullo sfondo. Calcio e riflettori sul Napoli dopo la vittoria di ieri della Roma sul Chelsea e il pareggio della Juventus. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Come sentite, evidentemente siamo in diretta anche oggi per aggiornarvi ovviamente sulle notizie. 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp. Non c'è invece la diretta Facebook, dall'altra parte del vetro Alessandro Marco Tulli in assistenza in redazione, Filippo Aureggi in regia, dunque possiamo iniziare e iniziamo da New York. Uzbeko, 29 anni, ha vissuto a Tampa in Florida, poi a New York, dove negli ultimi 6 mesi ha fatto l'autista per Uber. L'aggressore, con la green card in tasca di New York, è ora in ospedale sottoposto a operazione chirurgica. What I saw was that the driver... gridava all'Akbar, dicono molti testimoni che alle 15:05 hanno assistito ieri pomeriggio a pochi metri dal World Trade Center all'attentato a bassa intensità. Un furgoncino è piombato su una delle più follate piste ciclabili di Manhattan, ha fatto almeno 8 morti. L'autore della strage di Halloween ha lasciato un bigliettino vicino al furgoncino usato per l'attacco, nel quale ha scritto che agiva per l'ISIS. Ma se si sia trattato di un vero e proprio piano organizzato dall'ISIS, oppure se si tratti di un folle che ha utilizzato il marchio ISIS per giustificare un suo atto, è ancora presto per saperlo. Non possiamo consentire all'ISIS di tornare o entrare nel nostro paese dopo averlo sconfitto in Medio Oriente, ha twittato Donald Trump. L'Uzbekistan non è però uno dei paesi messi al bando dal presidente. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E negli Stati Uniti torneremo come sempre tra poco alle 13:45 con America 24 di Mario Platero. Intanto dalla Tunisia arrivano notizie che hanno a che fare con il terrorismo islamico. 2 agenti della polizia di servizio davanti al Parlamento sono stati accoltellati questa mattina da un presunto estremista islamico. Hanno riportato ferite, uno alla gola, l'altro alla fronte. L'uomo arrestato ha confessato di aver abbracciato l'ideologia jihadista da 3 anni e di considerare gli appartenenti alle forze dell'ordine dei tiranni. Ci spostiamo in Catalogna, un punto di giornata con Mario Magarò da Barcellona. Buongiorno Mario. Ciao Simone, buongiorno. In primis, Puigdemont non ha parlato a mezzogiorno dal Belgio, come aveva annunciato il periodico di Catalunya, uno dei principali quotidiani catalani, quindi si continuano a rincorrere le smentite nelle ultime 24 ore riguardo le mosse di Puigdemont, che ieri sera all'Avanguardia, il primo quotidiano di Barcellona, aveva dato per certo di ritorno a Barcellona, e invece alla fine dall'aereo sono sbucati soltanto 2 dei 5 consiglieri che lo accompagnavano. Tutta l'attenzione è rivolta alla giornata di domani e di venerdì, perché Puigdemont e gli altri membri dell'istituito governo catalano sono stati ufficialmente convocati a Madrid presso l'Audiencia Nacional per essere interrogati e rispondere quindi delle accuse di sedizione, malversazione di fondi e ribellione che sono state contestate dalla Procura Generale dello Stato. C'è da dire che Paul Beckert, l'avvocato esperto specialista nella difesa dei diritti umani, l'avvocato belga che è stato contrattato da Puigdemont, ha confermato ieri alla televisione olandese che l'ex presidente catalano non andrà a Madrid, non si recherà a Madrid. Quindi a questo punto dobbiamo aspettare, dobbiamo vedere quali saranno le misure che saranno adottate nei confronti di Carles Puigdemont. E d'altronde anche il procuratore generale dello Stato, José Luis Massa, aveva lasciato intendere che avrebbe chiesto una, come misura cautelare, il carcere in caso di assenza giustificata da parte di Puigdemont e di altri membri del governo catalano. Sì, avvocato che ha detto tra l'altro lotteremo contro l'estradizione. Vedremo cosa accadrà dunque nelle prossime ore. Intanto grazie a Mario Magarò per questo aggiornamento. Veniamo all'Italia con le cronache dalla manovra. Sull'uscita da scuola dei ragazzi delle medie potranno tornare a decidere i genitori. Il governo corregge il tiro sullo stop all'uscita autonoma degli under 14 e benedice, per bocca del ministro dell'istruzione Valeria Fedeli, gli emendamenti sul tema presentati dai senatori al decreto fiscale. La manovra, da cui sono state stralciate alcune misure ordinamentali, come l'equo compenso degli avvocati, entra però nel mirino di AP, il partito di Alfano, che la boccia perché la famiglia è bistrattata. Tanto da far dire ai capigruppo Maurizio Lupi e Laura Bianconi che così diventa difficile votarla. Mentre il premier Paolo Gentiloni si dice convinto che i numeri ci saranno, a Palazzo Madama anche MDP mette i suoi paletti e minaccia di non votare la manovra se non si eliminerà la rottamazione bis delle cartelle, che equivale, dice la capogruppo Cecilia Guerra, a un condono. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Intanto, a proposito di rottamazione, entra proprio in manovra una sorta di rottamazione dei televisori, o almeno il principio che porterà alla rottamazione dei televisori. Sentiamo. Con l'asta per le nuove frequenze telefoniche 5G si apre anche la partita del nuovo switch off della televisione digitale terrestre. Le emittenti televisive dovranno liberare entro il 2022 le frequenze attualmente occupate per fare spazio agli operatori della banda larga ultramobile, che nel frattempo si saranno aggiudicati i diritti d'uso al termine della gara. I broadcaster traslocheranno su nuove frequenze, che comporteranno però, per chi già non li possiede, il cambio dei televisori o il loro adeguamento mediante decoder al nuovo sistema digitale terrestre chiamato DVB-T2. Tutto questo, come anticipato dal Sole 24 Ore il 15 ottobre, è previsto dalla legge di bilancio. La norma della manovra prevede anche che 100 milioni vadano ad incentivi per la sostituzione dei televisori. La misura, tuttavia, arriverà solo in un secondo momento e in questa fase si pensa di limitarla a 2 milioni di utenti esentati dal pagamento del canone TV, principalmente anziani con oltre 75 anni, situazioni di disagio economico. Carmine Fotina, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Tra legge elettorale e vicende siciliane, siamo alla politica vera e propria. Una piazza comune del centrodestra in Sicilia per lo sprint finale della campagna elettorale. Ad offrirle oggi lo stesso leader della Lega. Domani alle 19, dice Matteo Salvini, c'è un nostro appuntamento a Catania, concordato da tempo con Nello Musumeci. Sarebbe bello ritrovarsi tutti in piazza sul nostro palco, una manifestazione comune per il nostro candidato. Un invito, dice Salvini, aperto agli alleati Berlusconi e Meloni. Insomma, quattro giorni dal voto il centrodestra si ricompatta. Silvio Berlusconi, già a Palermo, dove alle 17 terrà il comizio al Teatro Politeama, ha ricevuto la solidarietà dei suoi alleati alle accuse della Procura di Firenze di essere il possibile mandante delle stragi di mafia. Indagine ridicola l'ha definita Salvini. E intanto ancora polemiche per la gaffe del Movimento 5 Stelle per un post di Angelo Parisi, assessore designato del candidato Cancelleri contro Rosato. Parisi si scusa ma parla di strumentalizzazione, mentre il Movimento, in una lettera aperta pubblicata sul blog di Grillo, scrive al capo dello Stato invitandolo a evitare la catastrofe istituzionale di un nuovo Parlamento eletto con una legge illegittima. Il Rosatellum, infatti, si legge, distorce la democrazia. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. La cronaca: la Commissione Adozioni Internazionali è stata condannata a risarcire una coppia che doveva adottare un bambino in Kirghizistan, ma è stata vittima di una truffa. Condannato anche l'ente Airone Onlus, radiato dall'albo a seguito della denuncia. I fatti risalgono al 2012, sono 21 le famiglie truffate. Solo una ha chiesto risarcimento, le altre proseguono con la denuncia penale. Valentina Furlanetto ha intervistato l'avvocato della famiglia protagonista della vicenda, Pierfrancesco Torrisi. Il Tribunale di Roma ha stabilito che la Commissione Adozioni Internazionali non ha correttamente vigilato sull'operato dell'ente. La vicenda è quella dell'ente Airone, che si occupava di organizzare adozioni internazionali per coppie italiane in Kirghizistan. Di che cosa è accusato quest'ente? Queste famiglie si sono recate in questo paese vicino alla Russia, hanno incontrato questi bambini che avrebbero dovuto adottare, ma si è scoperto, noi abbiamo scoperto, che i bambini non erano adottabili, quindi i bambini erano, come dire, parte di una messa in scena per un'adozione che non si sarebbe mai potuta realizzare. Un po' come la vendita della Fontana di Trevi da parte di Totò. Dei bambini in vetrina, insomma, per attirare l'affetto, l'interesse e i soldi di queste famiglie. Esatto. Di quanti soldi si parla? Si parla di all'incirca di 50.000 euro a coppia. E anche uno strappo emotivo per queste famiglie che hanno incontrato fisicamente questi bambini che pensavano di adottare. Esatto, il Tribunale di Roma ha riconosciuto proprio il danno morale, ovviamente abbracciare un bambino che pensa che potrà essere adottato ma è solo una messa in scena, ovviamente crea un doppio dolore nella coppia e nel bambino. Chiuso il processo civile, voi adesso andate avanti sul piano penale. Il PM del Tribunale di Savoia ha infatti incriminato i rappresentanti dell'associazione Airone per associazione a delinquere finalizzata alla compravendita dei bambini, quindi attualmente abbiamo un impianto accusatorio molto grave nei confronti sia dell'ente e anche, spero, della Commissione Adozioni Internazionali. Le questioni che hanno a che fare con le molte denunce di molestie sessuali che stanno emergendo in queste settimane. Per quanto riguarda la Gran Bretagna, non c'è solo un dossier anonimo sulle presunte molestie a Westminster ad accusare Damian Green, che è il 61enne segretario di Stato numero 2 del governo di Theresa May, ma anche le rivelazioni al Times di un attivista Tory, rivelazioni che lo stesso Green smentisce come completamente false. L'attivista Tory, Kate Maltby, dice che l'uomo le avrebbe posato insistentemente la mano sul ginocchio e di averle mandato sms che vengono definiti come suggestivi. Intanto un altro attore accusa Kevin Spacey di aver cercato di molestarlo, ma questa volta l'episodio sotto accusa non risale a 30 anni fa. Il messicano Robert Cavazos scrive sulla sua pagina Facebook che Spacey ha cercato di palpeggiarlo quando la star di House of Cards era direttore artistico del teatro londinese Old Vic, carica che ha tenuto dal 2004 al 2015. Questi gli aggiornamenti su questo fronte. Noi veniamo invece al calcio. Mi ha raggiunto in studio Carlo Genta. Carlo, allora non ti chiederò di parlarmi di quanto è forte la Roma, perché sarebbe un interesse privato in atto pubblico. Bravo, ti chiederò, esatto, di parlarmi di quanto è scarso il Chelsea. Sei una carogna, ma va bene, perché essendo romanista ti ho minacciato prima di non fare questo collegamento. Ovviamente scherzavo, e ovviamente c'è da celebrare una grande notte europea della Roma. Direi che era ora, dopo anni di vacche magre, dopo anni di figure così. Ieri sera c'era il Chelsea all'Olimpico, c'era una grande notte, una partita da vincere. La Roma l'ha fatta nel modo migliore, 3-0 al Chelsea di Conte con doppietta di Shaarawy, gol di Perotti, con il Chelsea praticamente annichilito e con una Roma che adesso nel girone probabilmente più difficile della Champions League intera è prima in classifica con 8 punti, 7 nel Chelsea, 3 l'Atletico Madrid, che addirittura è stato fermato dal Karabakh, quindi sì. Roma messa benissimo. Tra l'altro sta ricominciando a circolare, Carlo, e forse la ricorderai, una dichiarazione di Massimo D'Alema di metà settembre di quest'anno che diceva: è stato un errore cacciare Spalletti, ora non abbiamo un allenatore, dovremo lottare per la salvezza. D'Alema, grande romanista, e le sue profezie. Ha esagerato un po' sì, con la sua anima di tifoso, no? Di Francesco è un eccellente allenatore, tra l'altro ha blindato la difesa della Roma pure in emergenza, Roma che non subisce gol da diverso tempo. Beh, ieri sera, che dire, canta sì, il risultato e canta la classifica. Juventus Malino 1-1 a Lisbona con lo Sporting di Lisbona. La Juventus poteva chiudere i conti del girone, cioè poteva già qualificarsi ieri sera con due turni di anticipo vincendo quella gara, anche perché il Barcellona è stato fermato dall'Olympiacos. Invece si è salvato in extremis con un gol di Higuain, che ha ritrovato il filo conduttore del gol. Ma c'è poco altro da salvare, davvero pochissimo altro da salvare, forse nulla, nella partita della Juventus di ieri sera, che non ha confermato in Europa i recenti progressi in campionato. È chiaro che insomma, per la Juventus il girone è molto più morbido rispetto a quella della Roma, però ieri sera non è stata una grande squadra. Non una grande squadra. E stasera il Napoli. Il luogo comune dice sono le due squadre più belle d'Europa a confronto. Napoli che riceve il Manchester City, altra grande notte italiana. E ci auguriamo che possa finire, magari non 3-0, però con un successo di una squadra italiana su una inglese. Il Chelsea di Guardiola sta dominando il campionato britannico a suon di gol, di gioco spettacolare, meraviglioso. Però Napoli a Manchester nella gara precedente aveva giocato una buona partita perdendo 2-1. Questa sera sarebbe davvero importante vincere questa partita per mille motivi, non solo per la classifica, ma anche per questioni di autostima, per dare una gioia che credo il pubblico di Napoli non viva da molto tempo. Quindi sarà una partita meravigliosa che il Napoli può giocare tutto sommato a cuore leggero, perché insomma, magari non perdendo, però anche con un pareggio si giocherebbe comunque la qualificazione nelle due rimanenti partite. Dunque ci aspettiamo calcio spettacolo al San Paolo questa sera tra Guardiola e Sarri, i due tecnici più gettonati e più spettacolari d'Europa in questo momento. Grazie a Carlo Genta anche per questa ampia anticipazione di tutti i convocati, che come sempre sarà in onda alle 14. Adesso ci fermiamo, il traffico, e poi inizia il nostro Giro d'Italia, e inizia da un argomento caro ad Effetto Giorno, una sorta di tormentone, la vicenda di Igor il Russo, ve lo ricorderete, l'assassino del barista di Budrio e di una guardia ecologica, Valerio Verri, scomparso nel nulla, nelle campagne del Ferrarese, dopo una ricerca che si è protratta per molte settimane, ha impegnato moltissimi uomini delle forze dell'ordine. Adesso un esposto della famiglia di Verri, di Valerio Verri, un esposto che racconta insomma una verità nuova, i difficili rapporti tra carabinieri e polizia che avrebbero impedito di catturare l'uomo. Parleremo di questo, parleremo di molto altro, a partire da quello che avete sentito nei titoli, questa vicenda di Positano. Positano che decide di mettere una sorta di tassa sul panorama. Traffico. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Effetto Giorno. Effetto Giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, sempre 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato degli attentati a New York, dell'attentato a New York, ci siamo occupati di Catalogna, della manovra, dell'ipotesi di rottamazione dei televisori per l'avvento della nuova generazione del digitale terrestre, di calcio. Abbiamo parlato parecchio anche di una vicenda che ha a che fare con le adozioni internazionali. Adesso iniziamo il nostro Giro d'Italia e torniamo in luoghi nei quali siamo stati a lungo, soprattutto nella passata stagione di Effetto Giorno. Siamo stati a lungo quando è iniziata la caccia all'uomo di quello che è noto a tutti come Igor il Russo, anche se il suo nome è un altro, non è per nulla russo, ma è serbo. La caccia a quest'uomo inizia sostanzialmente, lo riassumiamo per gli ascoltatori che si fossero persi tutte quelle che sono le precedenti puntate, inizia di fatto il 1 aprile, quando ci fu una rapina ad un bar e l'omicidio di un barista, Davide Fabbri. In realtà l'uomo, all'anagrafe Norbert Fehr, è già ricercato per una rapina a mano armata il 30 marzo ad Argenta, in provincia di Ferrara. Viene rapinata una guardia giurata la quale sottrae la pistola, e poi l'8 aprile nelle campagne toglie la vita a una guardia ecologica, Valerio Verri. Quando dico guardia ecologica sembra che stia parlando di un militare, in realtà sto parlando di un civile, di una persona normale che fa di mestiere anche la guardia ecologica. Succede che per le ricerche di Igor viene dispiegata una quantità di uomini enorme, viene ricercato in una fetta molto stretta di territorio. E in questa fetta stretta di territorio non viene trovato. L'ultimo capitolo del racconto, ve l'abbiamo riportato qualche settimana fa, è il racconto di una pattuglia di carabinieri che effettivamente lo incrocia. Chiede alla centrale che cosa deve fare, la centrale gli dice aspettate rinforzi. Nel frattempo che cosa fa Igor? Scende dal suo furgoncino, un fiorino, entra nel bosco, riesce dal bosco perché si è scordato qualcosa all'interno del suo furgone, e poi rientra nel bosco e da quel momento sparisce nel nulla. Noi siamo in linea con l'avvocato Fabio Anselmo, che è legale dei figli di Valerio Verri, appunto la guardia ecologica che ha perso la vita, che è stato ucciso da Igor il Russo. Avvocato Anselmo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi e grazie. E l'ultimo capitolo della storia lo state scrivendo voi con un atto depositato al GIP di Ferrara contro l'archiviazione di un esposto presentato dai figli di Verri. E in questo atto si racconta che in questa fuga di Igor avrebbe giocato un ruolo anche il contrasto, che viene da dire storico, tra polizia e carabinieri. È così? Assolutamente sì. Devo dire, in questo caso, non per responsabilità della questura. Il problema è sotto gli occhi di tutti, ma veramente noi che abitiamo in queste zone abbiamo assistito a un qualcosa di surreale. Erano giorni e giorni prima dell'omicidio della Guardia Ecologica, che in realtà il povero Verri era un pensionato volontario che amava l'ambiente, ecco, di questo si tratta, e si sapeva che Igor fosse nascosto in quella zona. E noi abbiamo ritenuto, utilizzando in quattro esposti tutti gli articoli di stampa che pubblicavano con molta precisione atti di indagine che a noi erano preclusi, e utilizzando questi articoli abbiamo articolato una richiesta di indagine nei confronti di coloro che gestirono il problema sicurezza in quella zona, in questo caso, sì, i carabinieri. Sì. Perché la zona rossa è stata chiusa dopo l'omicidio di Verri. Se fosse chiusa anche solo il giorno prima, non staremmo qui a parlare. Perché in sostanza i carabinieri non avrebbero fornito alla questura tutte le informazioni necessarie affinché il lavoro di ricerca di quest'uomo e di battitura della zona rossa fosse coordinato, ho capito bene? Nessuna informazione, non tutte, nessuna. Ce lo dice bene il questore, laddove, sentito proprio nel contesto dell'indagine da noi sollecitata, dice: io quello che ho, le informazioni le acquisivo dai giornali, mentre in comitato di ordine pubblico si parlava di altro. Pensate, il questore che acquisisce le informazioni dai giornali. Beh, lo ha messo nero su bianco il questore stesso, è un atto di indagine che noi abbiamo. È un vero paradosso. I carabinieri si sono difesi in qualche modo? Cosa dicono? Ah, non lo sappiamo, noi non abbiamo contezza di questo, devo dire che una difesa forse non richiesta da parte del comandante della Polizia Provinciale Castagnoli a favore dei carabinieri è consistita nella sua dichiarazione, dove egli afferma che la zona rossa sarebbe stata chiusa non per motivi di sicurezza, ma che per impedire che ci fosse intralcio alla ricerca del latitante, che il servizio di vigilanza delle guardie ecologiche potesse diventare un intralcio. Questa affermazione la ritengo, oltre che offensiva, profondamente offensiva nei confronti nostri, nei confronti della famiglia del povero Verri, e anche logicamente direi surreale. In realtà la cautela doveva essere adottata prima, qui si è chiusa la stalla quando poi erano già scappati. Sì, e probabilmente è scappato appunto prima della chiusura della zona rossa. L'episodio che citavamo poco fa, avvocato, è abbastanza significativo di come sia stata gestita complessivamente questa vicenda. Lo voglio ricordare agli ascoltatori, dice: perché ci tornate così tanto? Perché è in un certo senso è un fallimento dello Stato, cioè quando dispieghi così tanti uomini, batti il territorio in questo modo così approfondito e fai filtrare notizie di giacigli trovati nascosto in una tana e chissà che cos'altro, evidentemente c'è qualcosa che non ha funzionato, e fai proseguire le ricerche per così tanto tempo. Dopodiché, chiudendo tutto e cercando di chiudere tutto quasi in sordina e dicendo: beh, insomma, affideremo questo lavoro, basta al lavoro sul territorio, affideremo all'intelligence, vuol dire che hai fatto 2 mesi sostanzialmente ricerche inutili, perché evidentemente quest'uomo era già all'estero. Faccio notare all'ascoltatore, ci scrive sempre quando parliamo di questa vicenda, ci scrive sempre: allora, quando diciamo Igor il russo è perché è noto come Igor il russo, non ce l'abbiamo con la Russia, non ce l'abbiamo con Putin, per favore non prendete tutto da un punto di vista politico, perché sennò diventiamo pazzi. Grazie avvocato per essere stato con noi, buona giornata, buon lavoro. Antonino Reale, responsabile di pediatria dell'emergenza all'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, buongiorno, benvenuto ai nostri microfoni. Buongiorno a voi, ascoltatori. Allora, la storia è questa, è una storia brutta e dolorosa, molto dolorosa, ed è la vicenda di una bambina di Matera che è stata ricoverata all'ospedale Bambin Gesù con ed è morta all'ospedale Bambin Gesù, arrivata già in condizioni molto gravi, con dei sintomi che, da quel che abbiamo capito, dottor Reale, sono, non so se professore o dottore, non so mai come gestirla questa cosa. Uguale, dottore va benissimo. Dottore va benissimo, dottor Reale, è arrivata con sintomi già gravi, appunto, e se ho capito bene con dei sintomi da avvelenamento. Un po' impropriamente si è puntato il dito, e magari parleremo con lei per capire esattamente cosa vuol dire, sullo slime. Che cos'è lo slime? Per chi non ha figli, lo spiego, sono quei prodotti un po' viscidi che si può, con i quali si può giocare, che si fanno scorrere tra le mani, che sono a metà tra il fluido e il solido con i quali i bambini giocano. Che si possono fare anche a casa, e si possono fare però, e ci sono parecchi video su YouTube che troverete, con dei prodotti che sono anche prodotti chimici, tra l'altro c'è la schiuma da barba, ci sono i detersivi per i vestiti e via dicendo. I sospetti si sono appuntati su questo, posto che la bambina era una bambina di 9 anni e quindi è difficile pensare che ingoiasse un pezzo di questo prodotto, perché a 9 anni un bambino non è come un bambino di 3 anni, no dottore? Innanzitutto partirei da qua. Sì, perfetto, la ringrazio proprio per la precisazione che ha fatto riguardo al fatto che ancora non c'è molta chiarezza su questa vicenda tristissima. Per cui, ecco, prima di creare un allarme su queste sostanze, questi giochi, soprattutto questo slime che se ne sta parlando tanto, vediamo un attimo di posizionare la notizia nelle giuste dimensioni. Qui non sappiamo allo stato attuale esattamente cosa sia successo a questa bambina. Come ha precisato lei, una bambina di 9 anni di norma non porta la bocca e non, come può fare un bambino di 1 o 3 anni, un bambino piccolo, non porta alla bocca sostanze potenzialmente pericolose. È stato ritrovato questo metanolo, ma bisogna capire come è stato assorbito, quindi non demonizziamo questi prodotti. Certamente. Dall'altra parte c'è un tema più generale, e oggi fa una pagina interessante su questo fronte il Messaggero, che forse l'affronta dal lato corretto, no? Ragionare un po' su quanti casi approdano di avvelenamenti di vario genere nel vostro ospedale, esatto, dottore. Esatto, più interessante credo che sia pensare a tantissime altre forme di avvelenamento, perché qui non abbiamo certezza su questo caso di questa bimba di Matera, mentre abbiamo tante certezze su tutti gli altri bambini che ci vengono condotti ogni anno in pronto soccorso, che sono circa 400 per intossicazioni. Il nostro centro antiveleni poi riceve circa 700-800 telefonate l'anno da parte di genitori per ingestione di sostanze potenzialmente tossiche. Per fortuna spesso non lo sono, ma ahimè in qualche caso possono portare conseguenze sia letali che lesioni permanenti per tutta la vita, quindi cambiare completamente l'aspettativa e il corso della vita di un bambino. Quindi questo invece è un tema molto importante, cioè capire dove sono i pericoli, capire come prevenirli, capire che cosa fare una volta che ahimè il bambino ha ingerito una sostanza potenzialmente dannosa. Dottore, dato che, come dicevamo, l'attenzione forse impropriamente si è appuntata anche su queste procedure per fare gli slime, lei è in grado di dirci se ci sono dei rischi potenziali da questo tipo di operazioni? Ma io credo che dovremmo veramente vigilare sui bambini, regalare ai bambini solo giochi che corrispondano alle normative della CE, dell'Unione Europea, che sono certificati. Sì, questa ha ragione, dottore. È sì. Vero dall'altra parte che qua parliamo di un fai da te, e in un certo senso è anche un piacere dare ai bambini il gusto del fai da te, un po' come si fa la cartapesta, come si faceva la cartapesta un tempo, si fa lo slime, no? Senz'altro, però nel momento che si manipolano delle sostanze che non conosciamo i componenti, e spesso non conosciamo le componenti delle sostanze perché non sono neanche scritte, soprattutto se sono di origine orientale, senza demonizzare, come sentivo prima, la Russia, in questo caso non demonizziamo tutto l'Oriente, però effettivamente manipolare le sostanze, oltre alla questa metanolo che è stato chiamato in causa, che veramente mi sembra una cosa molto molto più rara trovarla dentro, anche perché sono vietate dalle normative europee l'utilizzo nei giochi piuttosto che in prodotti detergenti o igiene intima, quant'altro, come una schiuma da barba. Ma a parte questo, ci sono molte altre sostanze, faccio un esempio: il cadmio, il piombo, il mercurio, gli stalati che sono normalmente presenti e non dovrebbero essere dentro giocattoli in una norma. Mm. Questo è un vero pericolo, cioè un bambino che... Dice molto più del fatto che si facciano slime a casa. Gli incidenti legati a sostanze tossiche, le conosciamo tutti, detersivi, sì, gli disorganti, gli insetticidi, il petrolio, benzina che si possono trovare in cucina, in bagno, in garage. Sì. Poi abbiamo delle ingestioni di avvenimenti molto più subdoli, perché ancora non conosciamo tutti i risvolti, la potenzialità lesiva di questi prodotti, perché le lesioni possono venire a distanza di mesi, di anni, parliamo di sostanze potenzialmente cancerogene come gli stalati. La ringrazio, grazie Antonino Reale, responsabile di pediatria dell'emergenza all'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, per essere stato con noi. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati e poi due storie un po' più leggere, visto che è un giorno di festa. Andremo a Positano, dove si vuole tassare il panorama, e a Catanzaro, dove si vuole vietare il gioco del pallone in strada. Anzi no, c'è stata un'ordinanza, poi 24 ore dopo subito la marcia indietro. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli sta dichiarando in questi minuti il governatore di New York Andrew Cuomo dopo l'attentato di ieri. Un lupo solitario radicalizzato negli Stati Uniti, dice a Trump: non fomentare l'odio, sono 8 le vittime dell'attacco con un furgone. Catalogna: Puigdemont non si presenterà ai giudici e resta a Bruxelles. Lotteremo contro l'estradizione, fa sapere. Sulla manovra, scontro nella maggioranza e nella legge di bilancio, primo passo per la rottamazione dei televisori. Tracce di metanolo nel sangue della bambina morta al Bambin Gesù, come avete sentito, si indaga sulle cause. E calcio, i riflettori sono puntati sul Napoli questa sera, la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da La Trap, le autentiche birre dei frati trappisti. Assapora il silenzio. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo a chiudere il nostro Giro d'Italia. Due storie un po' più leggere, come si diceva, visto che è anche un giorno di festa. Michele De Lucia, sindaco di Positano, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Vuole tassare il panorama, ho capito bene? Assolutamente no, è la favola del momento e ci fa piacere che si parla sempre di Positano, sì, anche il primo novembre, sì, ma chiaramente abbiamo voluto regolamentare un'attività che si fa sul nostro territorio, che è quella delle varie riprese che si fanno, per cui abbiamo fatto questo regolamento in consiglio comunale votato da tutti, vedere chi viene nel nostro territorio e che cosa viene a fare. Mm. È un regolamento che disciplina. Cioè, se uno viene e mette Positano come sfondo della sua pubblicità, vi deve dare dei soldi. No, gli diamo anche noi un contributo, perché vuol dire che è stato affascinato dalla bellezza di Positano, per cui questa è un'attività assolutamente libera. Mm. E che cosa fate pagare? Noi, allora, prima di far pagare, devono, chi è un professionista che viene su Positano a fare diverse attività, dalla cerimonia o a riprese per scopo commerciale, lo deve comunicare al nostro comando, sì, e quando viene che cosa viene a, sì, fare. Per molte attività è gratis, è tutto gratuito. Per quanto riguarda chi viene a fare un'attività a scopo commerciale, di spot o quant'altro, non deve pagare una tassa, deve lasciare un contributo al comune di Positano che serve proprio per la gestione nel migliore dei modi dell'evento, di 1000 se è fotografico, 2000 se è video. Ma chiaramente è un contributo, non può essere né una tassa né vabbè, sì, una, no, è chiaro, del panorama. Tecnicamente è un contributo, però suona un po' come una tassa, De Lucia, no? Se dovessi vendere la cartolina di Positano, il panorama di Positano, ci vorrebbero almeno 100.000 euro al secondo. 1.000 euro per fare delle riprese a livello è pochino. Insomma, veramente un contributo minimo. Benissimo. Mi sembra di aver capito, non è che fate i soldi con questo, mi sembra di aver capito che più che altro per registrare e avere il controllo di quello che succede e di come girano le immagini della città, no? Esatto, è una questione per conoscenza del territorio, chi viene sul nostro territorio, e di sicurezza, visto pure i momenti che viviamo. Sì. Sappiamo tutti, sono positano, c'è tutto il mondo. Così lo sappiamo. A coccolare i nostri ospiti, come ci teniamo a far star bene i nostri concittadini, cerchiamo di fare del nostro meglio per rendere tutto questo possibile. Grazie Michele De Lucia, sindaco di Positano. Restiamo al sud e andiamo da un altro sindaco, ma ci spostiamo a Catanzaro, dove Sergio Abramo, buongiorno, benvenuto, buongiorno. Primo cittadino del capoluogo calabrese, ha firmato un'ordinanza che poi ha ritirato 24 ore dopo per vietare di giocare a pallone in giro per le strade della città. Che è successo, Abramo? No, ci sono state delle polemiche dovute al fatto che sono dovuto intervenire dei carabinieri per una piazza dove dei ragazzi normalmente giocano a pallone. E abbiamo avuto anche l'impianto di illuminazione della galleria che è stato devastato da ragazzi che giocavano anche lì a pallone. Carabinieri intervenendo a sedare. Ma devastato, vita, devastato anche illuminazione. Ma devastato quanto? Intendo. No, hanno rotto le lampade. Giocando a pallone, insomma. Nella galleria, quindi non sono bambini, sono ragazzi, adulti che giocano a pallone in queste piazze. Allora, se intervenendo i carabinieri, dice, ma se non c'è un'ordinanza del sindaco, noi non possiamo intervenire. E quindi non volevamo sicuramente, perché i bambini piccoli... è minaccioso, il titolo dell'ordinanza è divieto di praticare attività ludiche e o sportive di qualsiasi genere nelle pubbliche vie e piazze di tutto il territorio comunale che possono arrecare disturbo e o molestie alle persone. No, nelle piazze di tutto il territorio comunale. Nelle piazze di tutto il territorio. Pubbliche vie e piazze c'è scritto qua nell'ordinanza, Sì. C'è questa problematica dei ragazzi che giocano a pallone, che sono, non sono bambini. Come problematica? Problematica nel senso che danno fastidio alla collettività e ci sono state delle situazioni come quella dell'altra sera dove sono dovuto intervenire i carabinieri. Ma ragazzi di che età? Quindicenni, vabbè, sono ragazzi. Certo, ragazzi, quindi non si trattava di bambini, era per vietare, per poter intervenire, far intervenire i carabinieri quando ci sono delle situazioni un po' particolari. Ma strutture o luoghi dove questi ragazzi possono andare a giocare a pallone ce ne sono oppure no? Sì, tantissime, ci mancherebbe, ma i campetti di calcio ci sono dappertutto, tutte le città. E sono di libero accesso, cioè uno ci può andare. Alcune sì, alcune no, naturalmente. Alcune sono pubbliche, sono di libero accesso. Abramo, mi dice una cosa, ma lei quando era ragazzino a Catanzaro, ma ci giocava a pallone per strada? Sì, e quante volte ci sono state delle lamentele perché giocavamo in mezzo alla strada? E allora se poi con un pallone di cuoio tu rompi un vetro di una finestra che poggia su una piazza, capito, il pericolo c'è. Era solo per questo, ma visto che si è fatta tanta polemica, ho preferito praticamente ritirarlo. Non era questa l'intenzione. L'intenzione era permettere eventualmente, qualora dovesse esserci un'ulteriore lite, permettere ai carabinieri di poter intervenire. Normale che nessuno ha mai protestato. Però adesso si ripropone il problema, nel senso che lei ha ritirato l'ordinanza e quindi i 15-16 anni ricominciano a giocare a pallone in strada. Vabbè, che lo facessero, dalla vita che è così, che dobbiamo fare più niente, perché quando fai qualcosa vieni praticamente aggredito dai media a livello nazionale, addirittura per un'ordinanza del genere mi sembra un po' eccessivo. Comunque ci sta, ormai funziona così. Noi sindaci siamo sottoposti ormai a una pressione vi ospitiamo spesso. Devo chiudere. Grazie Sergio Abramo, sindaco di Catanzaro, buona giornata. E insomma, a questo punto Catanzaro è calcio free, se siete in zona e volete andare a giocare a pallone si può per le strade e piazze di Catanzaro. Traffico, Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.